Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio, nuovo appuntamento con i temi del momento, i temi legati all'andamento di mercati finanziari e alle ripercussioni di questi scenari che vediamo appunto delinearsi ogni giorno anche nelle nostre abitudini, una relazione piuttosto ardita. E allora, da cosa partiamo? Il Parlamento tedesco ieri ha approvato con un larghissimo margine l'ampliamento dei poteri e delle risorse del Fondo Salva Stati europeo. Perché partiamo da questa notizia che conosciamo già da oltre 24 ore, ci abbiamo aperto anche il giornale radio di ieri? Perché questo intervento del Parlamento tedesco è stato un altro passaggio fondamentale per la crisi dell'Eurozona e dell'Eurodebito. Con il via libera tedesco al rafforzamento di questo fondo, la cui dotazione viene autorizzata a passare da 250 a 440 miliardi di euro, viene consentito appunto a questo fondo, scusate ma non riesco a parlare con questo raffreddore terribile, viene consentito a questo fondo di acquistare titoli di Stato sul mercato secondario e di aprire linee di credito a disposizione dei paesi in difficoltà. La Germania diventa il decimo paese ad approvare la proposta formulata nel vertice europeo del 21 luglio scorso. In attesa della decisione, tra l'altro, circa l'erogazione di 8 miliardi, degli 8 miliardi di euro alla Grecia, erogazione che verrà fatta probabilmente nella prima metà del prossimo mese, sono in corso discussioni tra le autorità politiche sulle diverse opzioni per usare le risorse di questo fondo. E allora cosa vogliamo arrivare a dire? Che sono giornate cruciali alle quali siamo abituati ormai da mesi, ma in particolare da luglio ed agosto, quando la crisi europea ha subito un'improvvisa accelerazione, giornate cruciali appunto di esame della crisi attuale. Come ricorderete, quello che è accaduto tra luglio e agosto ha suscitato una grande preoccupazione fra tutti, politici, economisti, analisti, governanti di mezzo mondo, grandi investitori e piccoli risparmiatori. E allora, dalla scorsa estate, i più affezionati si ricorderanno che il Sole ha cominciato ad affrontare in maniera particolarmente approfondita gli aspetti di questa nuova tempesta finanziaria. Analisi che da domani verranno raccolte tutte in una serie di pubblicazioni. Esce da domani infatti il primo manuale anticrisi, come affrontare la tempesta e non prendere decisioni sbagliate. Siamo davvero curiosi di capire quali suggerimenti sono contenuti in questo manuale. Allora, con noi stamattina per parlarcene anche insieme ai vostri suggerimenti, Marco Mariani del Sole 24 Ore. Marco, benvenuto e bentornato, anzi. Grazie. Era da un po' che latitavi dai nostri microfoni, così come Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, ciao, bentornato anche a te. Buongiorno a tutti. Allora, Marco Mariani ha coordinato questa uscita, che però è curata da un'altra firma autorevolissima del Sole 24 Ore, che è quella di Fabrizio Galimberti. Marco, a te il compito di farci il biglietto da visita di questa iniziativa editoriale. Io l'ho presa un po' alla larga perché sono ritornata a raccontare la cronaca finanziaria di questi giorni, l'approvazione appunto da parte del Parlamento tedesco dell'ampliamento del fondo Salva Stati, ma come dicevo, sei d'accordo quando dico che anche questo è stato un passaggio fondamentale per la crisi attuale? Assolutamente, è un passaggio importantissimo, l'hai presa alla larga, ma proprio questo è l'orizzonte molto ampio nel quale ci stiamo muovendo e nel quale si muove anche la nostra collana. Io partirei dal titolo di questa iniziativa, che è Risparmio e investimenti in tempo di crisi. Questo evidenzia bene quali sono le finalità della nostra opera, che è strutturata in 8 volumi. È quella di fornire un orientamento in un contesto dell'economia e dei mercati che è in una fase di profonda trasformazione, di profonda turbolenza, di aiutare i lettori, di coinvolgerli nella comprensione degli avvenimenti e soprattutto di dare anche a loro dei punti di riferimento, delle indicazioni concrete per capire quali sono le conseguenze, le ricadute concrete di questa crisi nelle loro attività quotidiane, nel loro risparmio, e qual è di volta in volta il modo migliore, più efficace per difendere il proprio denaro e per affrontare questa situazione. Quindi questo è lo spirito generale della nostra iniziativa, Risparmio e investimenti in tempo di crisi. il primo volume con il quale inizia questa collana, che sarà in edicola domani con Il Sole 24 Ore a un prezzo, diciamo, simbolico, noi diciamo a meno di un caffè, 0,50 euro, è appunto il manuale anticrisi, un libro scritto da Fabrizio Galimberti, che è la firma storica dell'economia del Sole 24 Ore, che associa contemporaneamente una grande competenza a uno stile molto raccontato, a un passo narrativo che aiuta attraverso 40 tappe, 40 passaggi a comprendere gli snodi fondamentali della crisi e anche affrontarli con uno spirito un po' più disteso, meno condizionato dai toni drammatici che in questi mesi hanno condizionato la nostra partecipazione della infatti, crisi. E che tra l'altro a volte indispettiscono un po' anche i nostri ascoltatori, io lo noto quando raccontiamo di questi avvenimenti a Radio 24 anche attraverso Salva Danaio, è sempre molto difficile trovare ed individuare il tono giusto per raccontare certe giornate di borsa che sono molto negative, quando anche il mercato obbligazionario, che è sempre stato, come dire, la cassaforte dei risparmi degli italiani, è andato sulle montagne russe, è stato molto difficile spiegare agli ascoltatori le motivazioni per cui succedeva tutto questo e per cui ancora sta succedendo, perché non siamo ancora fuori dalla, come dire, dalle difficoltà. Detto questo, vorrei invitare i nostri ascoltatori ad interagire con noi chiamandoci come sempre all'800 24 00 24, senza come dire sorridere del tema. Vorrei lanciarvi questa preoccupazione: voi che manuale anticrisi avete scritto in casa vostra? Avete riorganizzato le vostre abitudini? Avete riorganizzato la vostra propensione, capacità di risparmio? Perché parlava Marco Mariani prima delle conseguenze concrete di questa crisi, che sono state tante, tante perdite di posti di lavoro, i risparmi che non rendono più granché, la borsa che ha cancellato completamente il concetto dell'ottica di lungo periodo, insomma tante cose. Raccontateci un po' come la pensate, appunto qual è il manuale anticrisi che avete scritto all'interno della vostra famiglia. Moria Longo, qual è il tuo punto di vista? Quali sono in questo momento i temi che suscitano maggiore interesse, almeno dal tuo punto di osservazione, appunto, ai lettori del Sole 24 Ore? I ripetuti rovesci della borsa, la crisi delle banche, il titolo di Stato che sembra essere diventato più pericoloso, mi viene da dire questo termine, di un titolo tecnologico della New Economy? Io penso che tutti questi che hai citato sono sicuramente motivi di preoccupazione, ma sono tutte conseguenze, non sono la causa. Attualmente io penso che la causa in Europa, soprattutto di tutta questa turbolenza, le cause siano due. La prima è la situazione greca, che desta enorme preoccupazione, perché la Grecia è ormai tecnicamente in default, i numeri di bilancio, i numeri economici del paese sono da default. Quello che conta adesso è capire se c'è la volontà politica oppure no di salvarla o di mandarla in default. Da questo dipende il destino di tanti altri paesi d'Europa, perché un evento come questo è un evento imponderabile, nessuno sa cosa possa accadere. Io ricordo soltanto cosa è accaduto qualche anno fa quando andò in default Lehman Brothers, che era la più piccola delle grandi banche di investimento americane. Quello creò un effetto domino enorme. Ecco, è questa la preoccupazione principale, perché la situazione nel resto d'Europa sarebbe anche gestibile, anzi è gestibile. C'è soltanto questo grosso problema della Grecia che va risolto, e attualmente manca la capacità politica di trovare la quadra di questo problema. Il secondo grande problema, che è connesso al primo, è la recessione o comunque il rallentamento economico. Il problema grosso della crisi è che gli stati e i privati, a seconda dei vari paesi, hanno altissimi debiti, tantissimi. C'è un eccesso di debito nell'economia industrializzata. L'altro giorno è uscito un report di Credit Suisse che calcolava che nei quattro paesi più industrializzati del mondo c'è un eccesso di debito di 8.000 miliardi di dollari. Questa era la loro stima. Cioè, quindi bisognerebbe togliere 8.000 miliardi di dollari di debiti per tornare ai livelli fisiologici. Questo enorme debito ovviamente si può rimborsare, si può ridurre soltanto in un modo, con una crescita economica che ovviamente per gli stati aumenta le entrate fiscali, per la gente aumenta l'occupazione, il reddito, eccetera eccetera. Ecco, andiamo dalla parte opposta, e questo è l'altro grave pericolo. La risposta politica che deve arrivare dall'Europa è duplice, quindi da un lato trovare una soluzione definitiva per la situazione greca e dall'altro fare qualcosa per far risalire l'economia. Il problema è che attualmente stanno facendo l'esatto opposto, perché per esempio tutte le misure d'austerity che si impongono alla Grecia sono talmente recessive che il PIL della Grecia a inizio anno era stimato in calo del 3% nel 2011, adesso già si stima meno 5,5%. e quindi si sta avvitando la crisi, non si sta risolvendo. E la stessa cosa si sta proponendo in tanti altri paesi, dove manovre continuamente, anche in Italia, vengono fatte manovre che sono di tasse, di diciamo manovre più recessive che sicuramente espansive. E questo quindi è il vero problema, quindi risolvere il problema greco e risolvere il problema della crescita economica. Tutto il resto viene di conseguenza, le borse, i titoli di Stato sono la reazione a questi due problemi. Il problema è che ancora non si vede appunto una soluzione. E infatti le due cose che ha citato non sono sicuramente questioni di poco conto. Allora, il mio manuale, il primo ascoltatore che risponde alla nostra sollecitazione è il vecchio libretto postale. Effettivamente, Marco Mariani, credo che forse non in questo numero del manuale anticrisi, ma in uno dei numeri successivi appunto affronterete anche di nuovo come dire tutto l'elenco dei prodotti di risparmio magari più a cui gli italiani sono più affezionati. Il libretto postale appunto è uno di questi. Affronterete appunto proprio anche le tendenze che si sono manifestate in tempi recenti da parte delle famiglie italiane, come sì, hanno collocato il loro risparmio. La parte centrale della nostra collana, in particolare il terzo, il quarto e il quinto libro, sono tutti dedicati alle indicazioni per il risparmiatore, riprendendo i temi che sono stati affrontati quest'estate in alcune rubriche di grande successo del Sole 24 Ore. E qui ne vorrei citare due in particolare: da una parte la bussola del risparmiatore, che tutti i nostri lettori ormai da parecchie settimane, da un mese e mezzo, trovano sulla prima pagina del giornale tutti i giorni, che è un'analisi condotta da parte dei nostri giornalisti sul fatto della giornata, sul grande evento. Analisi che cerca di spiegare quali indicazioni concrete ne derivano per la gestione del proprio risparmio e del proprio investimento. L'altra rubrica di successo che ha accompagnato tutta l'estate la cronaca della crisi da parte del Sole 24 Ore è Tutto Risparmio, e contiene appunto un'analisi prodotto per prodotto di tutti gli strumenti destinati alla famiglia risparmiatore, da quelli più tranquilli per gestire in sicurezza i propri soldi, la propria liquidità, come i conti postali, i buoni postali, a quelli più sofisticati per gli investimenti, cercando anche di spiegare come il nuovo scenario, la nuova percezione del rischio, che è uno degli elementi più forti portati da questa crisi, che ha fatto emergere come i titoli di Stato, che erano l'elemento tradizionale di forza, di sicurezza di ogni portafoglio, adesso è diventato uno degli elementi principali di incertezza, di volatilità e di rischiosità, e quindi anche questo fattore cambia completamente la percezione di come deve essere strutturato il portafoglio. Con questi libri che fanno parte della nostra collana, quindi in particolare La bussola del risparmiatore e Tutto risparmio, vogliamo offrire delle indicazioni molto pratiche, concrete, per aiutare i nostri lettori a interpretare questa fase difficile. Allora, e se c'è qualcosa che non riuscite ad interpretare, me ne rendo conto, è una crisi complicatissima, basti vedere il modo in cui si è originata nel 2007 e il punto a cui siamo arrivati nel giro di 5 anni, appunto, raccontatecelo all'800240024. Vedo già degli ascoltatori che sono pronti ad intervenire, in molti ovviamente sensibili sulla questione dell'andamento dei titoli di Stato italiani. Qualcuno ci chiede delucidazioni sui conti di deposito, se una banca fallisce, insomma, questi strumenti sono sicuri, un po' sono le domande ricorrenti, anche perché l'altra grande tendenza che è maturata tra risparmiatori negli ultimi anni è stata quella di collocare appunto il proprio risparmio, non sapendolo bene dove dirottare, in conti correnti, in conti di deposito, appunto strumenti molto liquidi, ma pronti appunto ad essere magari reimpiegati qualora si vedesse la fine di questo tunnel, che ancora effettivamente non si vede. Dobbiamo andare adesso a fare la nostra prima pausa. Intanto non vi ho raccontato però che oggi la borsa è negativa e vedo che sta anche peggiorando. Francoforte perde il 3%, Parigi -2,28%, Londra -1,50%, Milano -2%. Oggi tornano le preoccupazioni, proprio come ci diceva prima Moria Longo, di natura macroeconomica, cioè questa inflazione europea al 3% che probabilmente adesso stringerà in una morsa molto dura la Banca Centrale Europea, e poi magari vi spieghiamo anche perché. Eccoci qua, chiacchierate con il microfono aperto, non con il microfono spento. Ancora buona giornata da Deborah Rosciani, Salva Danaio. Oggi presente il manuale Anticrisi, questa nuova iniziativa editoriale delle Sole 24 Ore che parte da domani e accompagnerà i lettori del quotidiano per una lunga serie di sabati. Questo manuale è in edicola. Marco Mariani, ribadiamo le condizioni così siamo assolutamente trasparenti, in vendita con il Sole 24 Ore, ma a 0,50 centesimi tutti i sabati per 8 sabati insieme al nostro giornale. E allora in sostanza l'idea è quella di offrire l'ennesima guida. So che in questi giorni sui giornali ne avete trovate tante, ma naturalmente la missione del Sole è esplicitamente questa, una guida su ciò che ci accade attorno da diversi mesi a questa parte e come poter anche guardare con un po' più di serenità a quanto accade, anche se è una impresa molto difficile, soprattutto lo dico per quelle famiglie che vivono una condizione di difficoltà, perché e a loro va ovviamente soprattutto il nostro affetto, perché molti posti di lavoro si sono vanificati con questa crisi e c'è chi effettivamente all'interno di qualche nucleo familiare è un po' più in difficoltà rispetto a tanti altri, perché se non si ha il lavoro ovviamente la preoccupazione si moltiplica a dismisura. Per chi ha invece, come dire, solo per così dire, il problema di come collocare al meglio il proprio risparmio, allora noi cominciamo proprio anche a sentire le vostre considerazioni sul tema di questa mattina, che ci rendiamo conto è estremamente largo, però insomma, siccome avete visto che questa crisi poi in qualche maniera ci viene addosso con tutti i suoi effetti, e allora sentiamo un po' come la pensate. Antonio da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei lo sa che non abbiamo esperti di investimento questa mattina. Sì. No, non è per questo. Abbiamo colleghi giornalisti, sì. Esatto. Niente, io volevo chiedere ovviamente come tutti, per il discorso di questa crisi che diciamo sembra venire o non verrà, non si sa. Il problema è i nostri investimenti, cosa dobbiamo fare? Possiamo investire anche, non so, piccole cifre, 10.000 euro, 20.000 euro in qualcosa, o bisogna star fermi e aspettare? Cioè il discorso è cosa dobbiamo fare e cosa ci aspetteremo. Mamma non vogliamo mia, risposte certe. No, non vogliamo risposte certe ovviamente, perché nessuno lo sa, però capire quale sia la mossa più giusta, perché restare lì fermi non è che sia giusto. Nello stesso momento investire sia giusto o no? Dubbi che vengono certo, ovviamente Antonio, l'idea mia personale è che se uno ha solo 10.000 euro, adesso parto da questa cifra perché è quella che ci ha fatto l'ascoltatore, e deve collocare questo piccolo risparmio magari in uno strumento molto rischioso, no, non esiste una regola generale, mori a lungo, e questo è quello che ci insegnano. Poi magari se hanno ragione non lo sappiamo, perché anche loro di errori ne hanno fatti tanti, però tutti i gestori, gli analisti che sentiamo ogni giorno intanto ci dicono di non mettere tutte le uova in un unico paniere, e questa regola è riportata anche dal manuale Anticrisi. E poi che cosa possiamo dire? Sì, io avrei proprio detto questo, nel senso che ovviamente con 10.000 euro diversificare è abbastanza difficile, però parlando in senso lato penso che in questo momento la diversificazione sia veramente l'unica strategia vincente, perché ci possono essere mille futuri di fronte a noi. La borsa è molto sottovalutata, le banche sono molto sottovalutate, c'è chi dice che sarebbe il momento di comprarle. Certo è che in un momento come questo l'incertezza è talmente ampia che potrebbero andare molto peggio e potrebbe andare anche verso eventi molto traumatici, per cui il rischio è altissimo. Stesso rischio c'è sui titoli di Stato. I bot rendono al netto gli ultimi bot semestrali il 2,28% netto, al netto anche delle commissioni e così via. Tra l'altro i bot sono tassati meno per esempio dei conti delle correnti, 12,5%, anche nella riforma delle rendite, della tassazione sulle rendite finanziarie che entra in regime da gennaio, per loro rimane tutto inalterato. Per cui il bot, il titolo di Stato, rimane un investimento interessante in termini di rendimento, quello italiano. Ovvio che c'è una rischiosità, per cui il risparmiatore che investe in titoli di Stato italiani deve sapere che non stiamo più parlando di rischio zero, c'è l'eventualità che qualcosa possa andare male, ormai è prezzata nel mercato, ormai questo è scontato. Allora l'unico consiglio che si può dare ovviamente è di diversificare, per esempio investire in qualcosa che non è concentrato sulla crisi europea, visto che adesso l'epicentro della crisi è l'Europa e successivamente potrebbe diventare anche gli Stati Uniti, visto che gli Stati Uniti hanno numeri di bilancio di debiti pubblici e privati molto peggiori di quelli europei. Allora uno può andare a cercare qualcosa in altre aree geografiche, quindi la diversificazione è sicuramente la strategia vincente. Detto questo, in questo momento perdere dei soldi è molto facile, per cui un'altra strategia per chi vuole essere prudenti è mantenere la liquidità o comunque in beni reali, beni, non so, una casa per chi ha per chi ha un determinato livello di risparmi, oppure oro o altre cose, diciamo beni reali che possono proteggere l'investimento anche in momenti di eccessivo di vera crisi. Per cui ovvio le risposte sono tante a seconda di quanti sono i soldi che ognuno da investire, però l'unica regola fondamentale sicuramente è la diversificazione e almeno una parte proteggerla in qualcosa di reale, di concreto, che non tipo il materasso o il mattone, oppure quello che ci sta intorno, la casa. C'è un ascoltatore tra l'altro che vuole intervenire proprio su questo, adesso lo sentiamo, Pietro da Treviso, ma vorrei toccare con Marco Mariani un altro argomento, perché abbiamo ricordato, credo qualche milione di volte, che questa crisi nel 2007 è stata generata appunto dai mutui subprime americani, è diventata subito una crisi finanziaria terribile, le banche hanno cominciato a fallire, c'è stato il caso clamoroso nel settembre del 2008 di Lehman Brothers, ma ne sono fallite tante anche in Europa. Il sistema bancario italiano però si è salvato da tutto questo vortice così pesante, anche se poi la borsa continua a penalizzare fortemente i titoli del settore bancario, perché adesso la loro colpa è quella per esempio di detenere in portafoglio molti titoli di Stato, hanno la necessità di ricapitalizzarsi, ma questo in linea con quanto chiede l'Europa e quant'altro. Affrontate anche il tema nelle vostre guide della solidità delle banche, perché è un tema che gli ascoltatori hanno molto a cuore, delle banche italiane. Sì, lo affrontiamo, e proprio seguendo il filo conduttore di questa dinamica delle crisi che hai raccontato tu, spieghiamo come lo scenario rispetto al 2007-2008 arrivando ad oggi è completamente cambiato. Allora era prevalentemente una crisi del debito americano, del debito delle famiglie americane, delle banche americane. Adesso la crisi si è trasformata sempre in una crisi di debito, ma soprattutto di debito cosiddetto sovrano, quindi dei grandi stati, in particolare degli stati europei. Le banche europee italiane, almeno soprattutto quelle italiane, che erano riuscite a riemergere dopo la crisi difficile del 2008, adesso stanno scontando una nuova fase ulteriore di difficoltà, proprio per il legame molto stretto e forte che hanno con il debito pubblico italiano, le banche italiane, oppure nel caso delle banche francesi, che erano ancora più bersagliate negli ultimi mesi dal mercato per i legami con la situazione greca, con i titoli di Stato greco. Quindi da questo emerge un contesto di nuova e ulteriore difficoltà che pone problema probabilmente la necessità di ulteriori interventi di ricapitalizzazione delle banche per renderle ancora più solide per affrontare queste situazioni di crisi. Questi venti sempre sinistri, costantemente sinistri. Allora, titoli di Stato. Ieri una nuova asta del Tesoro e per il BTP decennale c'è stato un rendimento in crescita enorme. Il mercato ha chiesto al Tesoro italiano un riconoscimento del 5,86%, il massimo rendimento dal 1997. Il tema dei titoli di Stato viene naturalmente, inevitabilmente affrontato anche dal manuale anticrisi. Noi abbiamo tratto da questo volume questa lettura. Non ci sono crisi, ci sono solo opportunità, recita un vecchio detto. Un detto ottimistico, perché spesso le crisi sono solo crisi e basta. Ma rimane vero che, per esempio, una brusca ritirata dei prezzi dei BTP può essere allo stesso tempo una crisi e un'opportunità. Dov'è l'opportunità? Ne possiamo vedere due, una a livello della comunità e una a livello del singolo risparmiatore. A livello del paese, la crisi può essere di stimolo ad adottare delle misure difficili e impopolari, ma necessarie. Ma c'è anche un'opportunità a livello del singolo. Se i prezzi dei BTP crollano, si crea una finestra di opportunità. Si acquista a un prezzo basso e ci si garantisce quindi un rendimento elevato fino alla scadenza del titolo. Naturalmente il problema è quello di sapere se i prezzi non scenderanno ancora o se la crisi si aggrava, se i titoli saranno rimborsati in tutto o in parte, senza contare il fatto che la finestra di opportunità, se di opportunità si tratta, è tale per il risparmiatore che entra su quei titoli per la prima volta. Chi i titoli li aveva già, invece, assiste inerte alla perdita di valore e può solo sperare che i prezzi poi rimbalzino. La lezione? È quella di sempre. Bisogna adeguare gli acquisti al proprio profilo di rischio. La cosa più sicura è quella di comprare i titoli per tenerli fino alla scadenza. Per i titoli pubblici, comprare BOT se non si ama il rischio e BTP se li si vuole tenere fino alla scadenza o se si ama il rischio. Sì, c'è stata l'Argentina, ma è molto improbabile che un paese europeo possa fallire. Coloro che hanno comprato BTP nei giorni bui della crisi hanno con ogni probabilità fatto un buon affare. Ce lo auguriamo tutti, naturalmente. Questa era la lettura, era uno dei pezzi appunto di Fabrizio Galimberti apparsi sul Sole 24 Ore nelle scorse settimane. Ricordava Isabella Bufacchi questa mattina sulle Sole 24 Ore che per ritrovare un rendimento dello stesso genere appunto bisogna ritornare all'emissione della prima tranche del BTP novembre 2007, scadenza 2007, quindi fu emessa nel 97, 4.000 miliardi di lire il 30 ottobre appunto del 97. All'epoca, cioè 14 anni fa, nel pieno della crisi dei paesi emergenti trainata dall'economia asiatica, il BTP denominato in lire fu collocato al 6,10% contro un rendimento del Bund in marchi tedeschi che viaggiava al 5,60, quindi anche loro in quel momento erano su livelli piuttosto alti. Moria Longo, lo spread era di 50 punti base all'epoca, siamo arrivati a 400, ma non è solo colpa nostra, è anche perché comunque il titolo tedesco viene molto ricercato, cioè questo spread è molto largo, non solo perché noi siamo considerati enormemente a rischio, c'è anche la fuga verso la Germania. Certo, assolutamente, quello che ha evidenziato questi ultimi, soprattutto questi ultimi mesi di crisi, di volatilità sui mercati, è stata una fuga dal rischio degli investitori e acquisti verso ciò che è considerato sicuro. Partendo dal presupposto che nulla oggi può essere considerato veramente sicuro, gli investitori sono andati sul, diciamo, il meno peggio, cioè sui titoli tedeschi e sui titoli americani. Ricordiamo che anche questi, appunto, li definisco il meno peggio perché? Perché se ci fosse un default a catena in Europa, come gli catastrofisti prevedono, la Germania non sarebbe certamente immune. E se si guarda gli Stati Uniti hanno una situazione di bilancio pubblico di debito molto peggiore di quella europea, per cui non sono la perfezione e la sicurezza, ma in questo momento sono sicuramente quelli più sicuri. Quindi questo ha abbassato notevolmente i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. Addirittura ci sono titoli di Stato a breve termine tedeschi che sono scesi sotto il tasso di finanziamento che la BCE applica alle banche, quindi una cosa assolutamente assurda. In America addirittura i tassi dei cosiddetti bot, diciamo i corrispettivi dei bot americani, quindi titoli di Stato a breve termine, in certi momenti sono addirittura andati sotto zero, non in termini reali ma in termini nominali, cioè gente pagava per comprare, quindi erano come cassetti di sicurezza in un certo senso. Questo è il senso del flight to quality, questo ha abbassato i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e quindi ha alzato la forbice, la forchetta, il differenziale con i titoli italiani. Questo però non è una scusante, perché l'Italia fa parte di un contesto economico europeo e internazionale, e per l'Italia finanziarsi a un tasso che è 4 punti percentuali più alto di quello della Germania significa un gap di competitività e di capacità poi di investire, certo, molto forte, perché ricordiamo che i tassi al 5% non sono di per sé il male. Se ci fossero l'inflazione a più alta e i tassi della Banca Centrale Europea non fossero bassi ma fossero al 4%, avere un tasso di interesse sui titoli di Stato del 5% sarebbe normale. Quello che è anormale è che sono bassissimi i tassi di mercato e sono alti in proporzione i tassi di interesse dello Stato. Questo crea un problema proprio perché come competitività uno si finanzia a tassi sempre più alti. Tra l'altro questo a cascata alza il costo del finanziamento delle banche. Le banche italiane si finanziano a tassi altissimi perché pagano il rischio Stato e di conseguenza le banche devono scaricare tassi più alti sulla clientela, imprese e famiglie. E questo è una cascata di cui paghiamo noi il conto italiani, non i tedeschi. Allora, adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi prometto a Pietro di sentirlo immediatamente, ma poi non vedo l'ora di sentire Luigi da Belluno perché ce ne deve raccontare una veramente divertente. Allora, io immaginavo fosse una trasmissione dai contenuti molto ampi e invece vedo che gli ascoltatori la stanno concretizzando molto con le loro osservazioni. Che c'è chi ci chiede cosa ne pensate dell'investimento immobiliare in Germania. Ho visto una trasmissione qualche sera fa con questi monolocali, bilocali in centro a Berlino che costano veramente pochissimo rispetto, ovviamente noi abbiamo il termine di paragone italiano. Moria, sei interessato alla materia? No, è vero che questa è una grossa opportunità di investimento, ci sono fondi dedicati a questo. Ricordo però che a Berlino i prezzi sono bassi da penso decenni, per cui non sono cresciuti in 10 anni o 20 anni, adesso non so da quanto, e non ci sono mille motivi particolari, non è detto che cresceranno in futuro. Benissimo, e poi tanti ascoltatori che si sono sensibilizzati al tema proprio che abbiamo affrontato poco fa, il tema sull'investimento appunto del mercato immobiliare in termini complessivi, i conti di deposito, c'è chi si chiede, ma insomma come fanno a offrire degli interessi al 4%, sono molti conti vincolati, e quando la Banca Centrale Europea vorrebbe tagliare i tassi, probabilmente lo farà il 6 ottobre, la prossima settimana, in questo scenario nuovo che si è aperto nelle ultime settimane, e tra l'altro dovrà anche affrontare la Banca Centrale Europea questo tema dell'inflazione, che invece è risalita al 3% in estate in Eurozona. Moria, che ne pensi? Sull'inflazione? L'inflazione e i conti di deposito, come fanno a riconoscere questi rendimenti? Beh, a me le banche non vogliono rispondere su questo tema. Questo è uno dei grandi misteri e difatti tanti considerano questa cosa un po' rischiosa. Va detto che le banche si stanno, per avere liquidità, si stanno strappando i depositi l'una con l'altra, per cui cercano di offrire condizioni maggiori. La loro strategia è cercare di offrire condizioni alte al cliente, ma cercare poi di abbassare il costo del finanziamento. A me, per esempio, un po' di tempo fa una di queste banche mi raccontava come fanno loro. Loro offrono un conto con un tasso vincolato a un anno innanzitutto, sì, del non mi ricordo che livello, comunque abbastanza. Ammettiamo che sia al 3%, ammettiamo la 3%. Media di quello che viene offerto adesso. Con i soldi che i risparmiatori mettono in questo conto, la banca compra bot che hanno un rendimento, come abbiamo appena detto, alto rispetto. Con questi bot, prendono i bot e vanno dalla Banca Centrale Europea, li danno alla Banca Centrale Europea per avere finanziamenti della Banca Centrale Europea, perché la Banca Centrale Europea dà finanziamenti alle banche se queste danno con titoli. Con dei collaterali, ecco, sicuri. Il finanziamento della Banca Centrale Europea è più basso rispetto al bot e rispetto allo stesso conto. E quell'extra è quello che loro possono riconoscere. Ecco, facendo tutta questa triangolazione mi spiegavano che riescono ad abbassare il loro costo del finanziamento. Però questa è una strategia di una banca, le altre sinceramente non si sa. Allora, il collaterale, ho detto questa brutta parola, Marco Mariani, prima Moria ne ha detta un'altra, altre default, che ormai sappiamo benissimo in che cosa significa, il fly to quality, la ricerca della qualità, lo spread, anche con questo termine, il fondo salva stati, insomma questi termini ce li spiega il manuale anticrisi? Il secondo libro del manuale anticrisi, quello che sarà in edicola sabato della prossima settimana, a 50 centesimi, è intitolato Parola chiave, il sole 24 ore. Vuole appunto offrire una panoramica di quelle che sono le parole più ricorrenti nell'economia e nella finanza, le parole chiave che servono per guadagnare la comprensione minima di un argomento, per capire quali sono i termini esatti della questione e iniziare a padroneggiare. È un libro che nasce da una piccola rubrica di successo che c'è tutti i giorni sul Sole 24 sì, ore. Sì, oggi c'è proprio il fondo salva stati, tutto l'ABC di questo fondo. Sì. Cioè, dall'abitudine, dall'impegno, proprio per aiutare i lettori nella comprensione dei fatti, di accostare ad ogni articolo, ad ogni grande tema dell'attualità, la spiegazione puntuale della parola chiave, del termine che è indispensabile per arrivare alla comprensione di quell'argomento. Prima che mi mandi a quel paese, Pietro da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo un'opinione. Ho acquistato 4-5 anni fa un appartamento con un mutuo. Poi in attesa di venderne un altro. Venduto il secondo, adesso c'ho 90.000 euro sul conto corrente. Non so come fare. Non so se estinguere il mutuo, se investirli in un altro modo, se acquisire un altro appartamento. Beh, sa Pietro, se lei facesse una chiacchierata con un consulente finanziario, la prima domanda che le farebbe sarebbe: hai bisogno nell'immediato di questo denaro, puoi accantonarlo per un lungo periodo? Detto questo, poi c'è tutta la sfera anche delle decisioni private. Io questa cosa la racconto sempre: se io potessi adesso del mio mutuo mi libererei immediatamente, seduta stante, ma questa è una percezione del tutto individuale. Moria, che ne pensi? Ricordo che la crisi è partita dai mutui americani, è una crisi del debito, è una crisi che sta alzando i tassi interesse. Adesso io non so se il mutuo a tasso fisso variabile, però i tassi interesse sui mutui stanno salendo, quindi è un costo che potrebbe diventare sempre più alto. Tra l'altro la crisi, come abbiamo detto, porta a disoccupazione eccetera eccetera, quindi potrebbe peggiorare le condizioni. Non sto parlando di questo caso ovviamente concreto, quindi un'estinzione di un mutuo, se uno se lo potesse permettere, non mi sembra un'idea così peregrina. Magari abbatterlo la metà, non lo so, alleggerire comunque il peso della rata mensile in questo modo. Ma questa di Luigi da Belluno ve la devo raccontare subito, perché Marco Mariani, ti invito, siamo quando sali nel pomeriggio alla riunione appunto con i tuoi colleghi del Sole, porta questo argomento all'attenzione generale, perché è davvero divertente. Luigi, che succede a Belluno in questo periodo? Sì. Buongiorno a tutti. Allora, è una cosa che ho messo anche su Facebook con una domanda specifica a Tremonti, ma naturalmente altre cose da pensare. Vorrei vederci, manca pure che sta a perdere qualche ora di tempo su Facebook. Le cose assurde che succedono in questo momento, no, sono che stanno vendendo i terreni, i boschi a un euro, e compriamo il carburante a un euro e mezzo al litro. Cioè, voglio dire, un investimento di, su un terreno, su un bosco, non ne sento mai parlare in trasmissioni che seguo volentieri come la vostra. Cioè, ci sono gli slogan, no? Comprate terreni perché non ne fabbricano più. Veramente assistiamo a un paese come il nostro, che è un paese stupendo, con prati, boschi abbandonati, eccetera. No? Adesso si spinge sul discorso delle biomasse, quindi... Luigi, io sto chiudendo. Il tema è che a Belluno vendono boschi per quanto? Un euro al metro. Lei li ha comprati? Ne ha comprato un po'? Sì, fate comprare ai miei figli anche. E che cosa ci fa poi? Come lo mette il reddito questo investimento? Guardi, siccome ci sono anche degli incentivi per il rimboschimento, ci sono incentivi addirittura per le migliorie boschive, per i tagli delle piante, eccetera. Uno li fa rendere così. Luigi, io la ringrazio per la sua testimonianza. Sono sicura che, come dire, indagheremo, no? Anche su questa nuova frontiera dell'investimento. La diversificazione non ha veramente limiti. Io ringrazio Marco Mariani e Moria Longo per essere stati con noi. Non abbiamo il tempo appunto per approfondire boschi del bellunese e quant'altro. Detto questo, però, abbiamo il tempo sicuramente questo fine settimana di leggere il manuale anticrisi in edicola da domani a 50 centesimi con Il Sole 24 Ore, come affrontare la tempesta e non prendere, speriamo, decisioni sbagliate, ma chi può dirlo, lo potremo dire solo tra qualche anno. Grazie a tutti, a lunedì.